Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Matteo, capitolo 6, versetto 33. Cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. In un mondo in cui la fretta e la pressione sembrano essere la norma, è facile lasciarsi trasportare dalla preoccupazione per le nostre necessità quotidiane. Avrò abbastanza denaro? Raggiungerò i miei obiettivi? Cosa accadrà alla mia famiglia? Queste domande sono comuni, ma Gesù ci offre una prospettiva radicalmente diversa. Invece di concentrarci sulle nostre ansie, ci invita a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, assicurandoci che così facendo tutte le altre cose saranno soddisfatte. È una sfida controculturale, vero? In una società che ci dice di inseguire il successo, accumulare beni e garantire la nostra sicurezza personale, Gesù ci chiede di confidare che Dio, nostro Padre Celeste, conosce le nostre necessità e se ne occuperà se diamo priorità a ciò che davvero conta, il suo regno e la sua giustizia. È una promessa che invita a una vita di fede e di fiducia in Dio, lasciando da parte l'ansia che così spesso ci consuma. Cerchiamo di comprendere il passaggio. Matteo 6,33 fa parte del Sermone sul Monte, dove Gesù insegna ai suoi discepoli sulle priorità del regno di Dio. Nei versetti precedenti Gesù parla della preoccupazione per le necessità basilari come il cibo, la bevanda e il vestire, temi universali e senza tempo. Tuttavia, invece di spronarci a lavorare di più o a preoccuparci maggiormente, Gesù ci riorienta verso l'Eterno. Cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia. Il regno di Dio si riferisce al governo di Dio nelle nostre vite e nel mondo. È il riconoscimento della sua sovranità e la disponibilità a vivere sotto la sua autorità. La giustizia di Dio non è solo un comportamento moralmente corretto, ma una vita che riflette la giustizia di Dio, il suo carattere e i suoi comandamenti. Cercando prima il regno e la giustizia di Dio, non stiamo ignorando le nostre necessità, ma confidando che Dio, nella sua fedeltà, le supplirà, mentre ci concentriamo su ciò che veramente importa. Questo versetto ci sfida a una riorganizzazione totale delle nostre priorità. Gesù non sta dicendo che le nostre necessità materiali non contano, ma che mettendo Dio al primo posto stiamo ponendo le nostre vite nell'ordine giusto. È un invito a vivere alla fede, una fede attiva, dove la nostra fiducia in Dio si manifesta nel modo in cui ordiniamo le nostre priorità e affrontiamo le nostre preoccupazioni. Ecco tre verità bibliche che possiamo estrarre da questo passaggio. Numero 1. Rivedi le tue priorità. Fermati un momento e rifletti su cosa stai investendo la maggior parte del tuo tempo e della tua energia. Stai cercando prima il regno di Dio e la sua giustizia? O sei più concentrato sulle tue necessità e desideri personali? Confida nella provvidenza di Dio. Numero 2. Pratica la fiducia nel fatto che Dio sa di cosa hai bisogno e che priorizzando il suo regno, Egli si occuperà del resto. Questo non significa essere irresponsabili, ma vivere con la certezza che Dio si prende cura di te. Numero 3. Cerca le cose di lassù. Nel cercare il regno di Dio, considera come le tue decisioni quotidiane possano riflettere una vita centrata sull'Eterno, invece che sul temporale. Pensa oltre il beneficio temporale che puoi ricevere e estenditi alle ripercussioni eterne. Questo è ciò che chiamiamo vivere per la gloria di Dio. Una piccola riflessione. Che questo versetto sia un richiamo costante al fatto che cercando Dio per primo, tutte le nostre necessità saranno soddisfatte secondo la sua volontà perfetta. Viviamo ogni giorno con la certezza che Dio ha il controllo e che la nostra maggiore preoccupazione deve essere cercare il suo regno. Preghiamo. Signore, aiutami a cercare prima il tuo regno e la tua giustizia in tutte le aree della mia vita. Insegnami a confidare che tu conosci tutte le mie necessità e che mettendo le mie priorità in te, tutto il resto troverà il suo posto. Fa che la mia vita rifletta la tua giustizia e il tuo amore. Amen. Oggi leggiamo Genesi capitolo 6, Matteo capitolo 6, Esdra capitolo 6 e Atti capitolo 6. Grazie per essere stati con noi. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!